e ci sono due modi di leggerli. Uno è quello elettoralistico, politicista, che riguarda la crudezza dei dati freddi, e l'altro invece in termini più generali. Naturalmente io preferisco il secondo. In termini tecnici, non starò io a ripetere quello che dicono tutte le testate dei giornali e che dicono tutti i commentatori. È ovvio che c'è un'affermazione importante del Movimento 5 Stelle, c'è un'affermazione importante all'interno dello schieramento di centrodestra della Lega di Salvini, che non è la vecchia Lega Nord, ma che è un nuovo partito nazionalista di tipo sovranista e identitario, e c'è una evidentissima sconfitta del Partito Democratico di Renzi e una disillusa partecipazione al voto per quel che riguarda Liberi Uguali, cioè la costola che dal Partito Democratico si è staccata per rappresentare la sinistra. Ma questo è assolutamente banale, è sotto gli occhi di tutti. Quello che io vorrei considerare è invece la sostanza che c'è sotto a questo voto e che non è di oggi. Chi si stupisce oggi di questo risultato elettorale vuol dire che non ha capito nulla di una tendenza della quale anche in questa emittente abbiamo parlato più volte, e cioè siamo un paese che sta andando a destra e sta andando verso la destra peggiore, cioè verso la destra sovranista, verso la destra plebiscitaria, verso quella destra che è chiamata comunemente destra populista. Perché dico questo? Perché sono tanti anni ormai che, se noi prendiamo in considerazione dei parametri elementari di valutazione della sensibilità, della cultura politica, dell'atteggiamento civile dei cittadini italiani, ci accorgiamo che la maggioranza di loro hanno posizioni sostanzialmente di destra, ma di destra estrema. Qui la destra liberale non ha cittadinanza in Italia. Noi siamo in un paese nel quale la destra liberale non ha avuto fortuna, non si è affermata, è stata cancellata dal fascismo e non è riuscita a costruirsi dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché da una parte era macchiata della partecipazione al precedente regime fascista, che era allora esecrato da tutti, e dall'altra parte era ricompresa nel moderatismo cattolico della Democrazia Cristiana, e dunque non ha avuto vita propria. Berlusconi si è annunciato nel 1994 come rappresentante del liberalismo di destra classico, ma non è stato così, ha fatto un partito personale, padronale, con spiccate tendenze plebiscitarie e populiste già lui. Dunque, questo in Italia manca. Quindi quando dico che c'è una spiccata cultura di destra radicale, intendo dire che le idee, le posizioni politiche, le culture politiche peggiori del secolo scorso trovano corso e cittadinanza in questo momento. Vi spiego. Se noi interroghiamo un italiano su quale sia la sua idea di nazione, ci accorgeremo che, anche se non vota per Salvini, ha un'idea di nazione molto più simile a quella di Salvini che quella democratico-inclusiva disegnata dalla nostra Costituzione o disegnata dalla Rivoluzione francese. Cioè c'è un'idea di nazione come unico, ultimo punto di riferimento, ultima trincea dietro la quale raccogliersi per difenderci dalla globalizzazione e per difenderci dal mondo. Sotto questo punto di vista i bersagli polemici sono due. Uno sono gli immigrati, come non tanto perché siano pericolosi, perché siano tanti, perché sappiamo benissimo che in Italia sono pochi, vogliamo scherzare, gli italiani che vanno all'estero sono 5 milioni e mezzo e gli immigrati sono 5 milioni, quindi delle due dovremmo ospitare immediatamente altri 500 mila immigrati, ma non è questo il punto. Come esempio di una mondializzazione, termine non a caso usato dalla destra in Italia, in realtà in Francia lo usano tutti al posto della parola globalizzazione, ma in Italia è usato dalla destra, come quella mondializzazione pervasiva che annienta la nostra identità e i nostri privilegi naturalmente, e i nostri piccoli mondi chiusi, protetti, che non esistono più, ma che ci illudiamo che esistano ancora. E quindi da una parte l'immigrazione come una mescolanza pericolosa, distruttiva dell'unica cosa che possiamo avere anche se siamo poveri, l'identità, e dall'altra parte l'economia naturalmente, e dunque la disoccupazione, e dunque le banche, e dunque i vincoli europei, e dunque la grande finanza, in un'idea di un complotto contro di noi. Ora, guardate, l'idea del complotto finanziario contro l'Italia è pericolosissima, Perché se è vero che anche una parte di sinistra ha parlato dei condizionamenti della Troica come qualcosa di molto grave, un conto è ragionare in termini di politica economica, un altro conto è pensare che esista uno spettro di un complotto internazionale finanziario contro qualcuno, in questo caso contro l'Italia, perché questo ha un nome nella storia del Novecento, che è fascismo, che è nazionalsocialismo. La Seconda Guerra Mondiale scoppia come forma estrema di difesa, dicono i nazisti, contro il complotto finanziario internazionale contro di loro, guidato dagli ebrei, perché poi tutto questo naturalmente si accompagna sempre con l'antisemitismo. Infatti vediamo che negli ultimi anni si è ripresentato anche in Italia un forte antisemitismo, perché è il complemento ideale, perfetto, del nazionalismo sovranista e identitario. Allora, questa cultura è pericolosa, questa cultura è devastante, questa cultura si è affermata e nessuno l'ha contrastata, nessuno l'ha ostacolata. E dunque oggi, quando c'è stato tutto il tempo perché si disgregasse ogni illusione rispetto agli ultimi frammenti di politica tradizionale, oggi si vota da questa parte, si vota per il Movimento 5 Stelle o per la Lega Nord, che sono i due veri rappresentanti di questa sensibilità. Poi ci sono i voti per gli altri partiti, ma andiamo a guardarci dentro quanto è democratico fino in fondo il voto per il Partito Democratico, quanto è di sinistra il voto per il Partito Democratico, quanto è liberale il voto per Forza Italia. Sono cose evidenti. Allora, la primo commento che farei a queste elezioni è che si disvela un mondo che era in incubazione da tempo, che c'erano tutti i segnali per leggere. Non è un caso che i veri fascisti dichiarati, Forza Nuova e Casa Pound, prendano pochi voti, sempre troppi per carità, però 8% è una cifra paurosa, ma pochissimi, perché le loro idee, i loro principi, i loro programmi stanno nella Lega Nord e in parte anche in 5 Stelle. Ecco, a proposito di questo, la radio in queste ultime ore è sotto attacco, ovviamente non voglio fare il complottista, però ci sono alcuni ascoltatori che criticano come dire, l'assimilazione del Movimento 5 Stelle a questa cultura politica. Molti fanno notare che buona parte, insomma, del corpo elettorale del Movimento 5 Stelle sono elettori delusi dal centro-sinistra che hanno provato questa nuova strada e quindi si rifiutano l'idea che siano di destra. Scusami se ti interrompo, abbiamo un caso bolognese abbastanza marchiano che ha creato un po' di discussione, insomma, l'endorsement di Ivano Marescotti, noto attore, che a un certo punto ha dichiarato di votare il Movimento 5 Stelle, pur essendo molto critico nel confronto del Movimento 5 Stelle, però con l'idea della spallata. A votare il Movimento 5 Stelle ci si arriva per tante strade, probabilmente. È vero, a votare 5 Stelle si arriva per tante strade, però le strade, diciamo, il punto di partenza di queste strade non giustifica il punto di arrivo. Mi spiego, quando Mirafiori, quartiere torinese operaio, da sempre comunista, votò per la Lega la prima volta, era certamente un voto di protesta, era certamente un voto esasperato, ma certamente non per questo la Lega era buona, per il fatto che i grandi voti di sinistra finissero lì. Oggi si è indebolita l'idea di sinistra, è molto diffusa l'idea che non ci sia più differenza tra destra e sinistra, cosa sbagliatissima, ma ormai è un assioma nel dibattito pubblico, anche se non è vero, anche se è profondamente infondato. E in tutto questo si dice la spallata. Alcuni dicono la spallata, altri dicono il fastidio contro l'establishment, altri dicono proviamo a cambiare tutto perché tutti gli altri si sono comportati malissimo, non hanno risolto i problemi. Ma la spallata vuol dire rivoluzione, e quando si fa una rivoluzione bisogna sapere dove si vuole andare, bisogna avere un progetto e una strategia. Siamo nel centenario della rivoluzione d'ottobre, quando Lenin ha proclamato lo slancio rivoluzionario, aveva ben chiara l'idea di come doveva riorganizzarsi il potere statuale, il potere politico, il rapporto tra questioni sociali e questioni politiche, il rapporto tra politica e società, e come allora si riteneva che la politica potesse rappresentare e dunque condurre a soluzione le questioni sociali. oggi spallata per cosa? Rischia di essere in alcuni casi nichilista, semplicemente, in alcuni casi fideista, rompiamo tutto e poi vediamo cosa succede, in altri casi ancora è semplicemente l'espressione di un fastidio, ma null'altro. Allora tutto questo cosa ha a che fare con la sinistra? Cosa ha a che fare con la sinistra? Tanti anni fa, ormai tanti anni fa, era ancora vivo Vittorio Foa e fu intervistato su questa materia. Come mai, si chiedeva Vittorio Foa, è stato un sindacalista della CGIL, è stato un esponente del Partito d'Azione, è stato un militante di Giustizia e Libertà durante il fascismo e durante la Resistenza, incarcerato dal fascismo, antifascista, ha rappresentato la sinistra sindacale per anni, era sinistra del Partito Comunista per intenderci. E negli anni 90 gli chiedono, ma voi siete contrari all'avventura berlusconiana, siete contrari, ma perché la sinistra, gli si chiede, è contraria a queste grandi cose? E lui dice, vedete, quando si fa uno strappo, o si sa dove si va, oppure gli strappi nuocciono sempre agli strati più deboli della città. E quindi la vera sinistra deve difendere gli strati più deboli della città. Per cui dice, io avrei delle idee molto molto più avanzate di tutte quelle che vengono proposte, ma la prima cosa è evitare strappi e traumi, perché questi metterebbero in difficoltà chi è già in difficoltà. Ecco, allora, spallata cosa vuol dire? È poco importante che uno venga da sinistra, che uno sia deluso. La delusione è un concetto individuale, è un concetto emotivo. Qua stiamo parlando di grande politica, o si fa la politica oppure si è emotivi, cioè si vota di pancia, e il voto di pancia non è più né di destra né di sinistra, è sempre di destra. Luca, una domanda, ti dà, rappresenta un piccolo motivo, una piccola ragione di sollievo l'esito del referendum che c'è stato tra gli iscritti dell'SPD in Germania per decidere, per dare, diciamo, il via libera alla seconda grossa coalizione con la CDU? Ma come hai accolto questa notizia? Con sollievo, con indifferenza, con anche ovviamente riguardo e relativamente a quello che è successo nelle urne in Italia? Rispondo con la frase che ho appena citato di Vittorio Foa: tra il meno peggio e il peggio è doveroso scegliere il meno peggio. Era necessario mettere in piedi un governo tedesco che tenesse in piedi in questo caso non solo la Germania ma anche l'Europa. Io ho seguito con una certa tensione il dibattito interno all'SPD, perfettamente consapevole e compreso delle ragioni di quella parte dell'SPD che non voleva la grossa coalizione, che non voleva sostenere un ennesimo governo con Angela Merkel. Eppure era necessario fare così, perché davvero vogliamo essere estremisti? La rivoluzione deve essere capace di farla e bisogna farla bene, perché altrimenti si tratta soltanto di agitazioni distruttive, quel poco di buono che esiste. Se no, bisogna coltivare quel poco di buono che esiste e farlo crescere. Farlo crescere nel tempo, farlo crescere con calma. E qui si apre una grande questione che tutti eludono. La politica non è fare una buona campagna elettorale e vincere le elezioni. La politica è tutti i giorni, nell'arco dei 5 anni, che separano un'elezione dall'altra. È tutti i livelli istituzionali tra i cittadini e le istituzioni alte, il Parlamento e il Governo. Allora, o si occupano questi due campi con un'attività quotidiana, oppure non parliamo di niente, oppure resta lo spazio per la pancia, e la pancia è di destra, o rischia di essere sempre di destra.